Pochi passi oltre Palazzo Ducale ci si immette in una piazza quadrata. Su un'alta stele, un'immacolata serafica apre le braccia al popolo credente. La statua domina la piazza e si volge alla chiesa cattedrale dedicata all'Assunta e a tutti i suoi tesori. Annina me li elenca, srotolando lentamente tre dita rugose. Il primo tesoro si cela nelle viscere della chiesa. L'edificio, di epoca normanna, che oggi compone la parte più antica della cattedrale, sorge infatti sui resti di una chiesetta paleocristiana, le cui tracce, conservatesi, oggi fungono da cripta. Quando fu concepita, l'antica chiesetta non era sotterranea, ma edificata sul piano stradale, come testimoniano le tracce, murate, di alcune finestre di fianco all'abside. Quando, con il tempo, il piano di calpestio della città è salito di livello, l'antichissima chiesa paleocristiana è stata inglobata, letteralmente fagocitata dalla chiesa più recente, diventandone il luogo più recondito. La cripta è un luogo silenzioso e surreale. Deve esserlo sempre stato, se lo Stupor Mundi, Federico II di Svevia in persona, la scelse per seppellire le sue due giovanissime mogli, Yolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra, che ancora oggi si possono omaggiare nel fresco sotterraneo della Cattedrale di Andria. Il secondo segreto cui guarda la Vergine è di fianco alla chiesa, sul suo fianco destro. Se si percorre esternamente l'edificio, è possibile vedere, adagiata sulla parete laterale, l'aguglia che incornicia una statua di San Riccardo, il santo patrono della città. Oggi la statua si erge sul margine dello spiazzo, quasi dimenticata, rifugio di colombe e piccioni. Ma secondo la tradizione, oltre 100 miracoli si sono manifestati per intercessione di quella statua. Fu innalzata nel 1721 quando i contadini, disperati, chiesero aiuto al santo per chiedergli che fermasse una violentissima invasione di locuste che stava biblicamente devastando raccolti e affamando la popolazione. San Riccardo pare abbia fatto davvero qualcosa. Il terzo segreto si cela infine all'ingresso del porticato della cattedrale, sul lato destro, lì dove si scorge un antico portale barocco, bellissimo, risalente alla seconda metà del 1700, che però non apre alcun edificio. L'antico portale è ciò che resta di un antico convento di Benedettine che sorgeva nella stessa piazza, proprio dinanzi al Duomo. Annina si ricorda bene, sua mamma glielo aveva descritto mille volte, l'abbattimento, tra preghiere e lamenti, di ciò che restava del convento. Era il 1938, probabilmente. Deduco da quel poco che commossa, mi dice Annina, al momento della demolizione rimaneva ben poco del convento, un cumulo di macerie pericolanti cominciate a vacillare molto tempo prima. Il disfacimento doveva essere cominciato nel primo quarantennio del XIX secolo. Le religiose non avevano mezzi per la riparazione dell'edificio, alle quali peraltro non erano obbligate dalla legge. Quando finalmente il comune era entrato in possesso della struttura, furono eseguiti alcuni lavori, che però risultarono inadeguati alla salvaguardia della struttura. Così le condizioni statiche erano presto peggiorate, al punto da imporne la demolizione. Il convento era stato istituito per volontà della duchessa Adriana Carafa. Raccoglieva ragazze di nobili famiglie che avevano fatto voto di clausura e di vita contemplativa. Non era stato però un terremoto a condurre l'edificio all'abbandono, né l'incuria, bensì la storia, quella che inizia con la S maiuscola, che è fatta di grandi momenti, certo, striati però di centinaia di storie microscopiche di violenza dimenticata. Il 23 marzo del 1799, infatti, il convento era stato attaccato brutalmente da Giacobini e le monache, protette dai legionari di Ettore Carafa, duca di Andria, erano state costrette a cercare rifugio nel palazzo ducale, mentre il convento veniva saccheggiato dai soldati francesi, feroci nel nome della laicità dello Stato. Il volto di Annina si vela di uno sgomento che ignora le ragioni della storia. Il pollice e l'indice percorrono il petto, velocemente, in segno di croce.